Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. E buonasera a tutte, benvenute alla 322esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Lo avete sentito dalla sigla, noi siamo il coordinamento lesbiche romane. Stasera in radio siamo io, Rosina. Ciao, Stefania, che mi fa da tecnica, e la ringrazio molto perché si sa che io ho una idiosincrasia nei confronti di qualunque cosa riguardi microfoni, mixer, eccetera eccetera. Allora, questa sera faremo alcune piccole considerazioni su un paio di film che sono usciti in questi giorni in sala, che hanno fatto abbastanza discutere, perché in questo momento si parla molto di diritti civili, e va da sé, di questione omosessuale, e anche noi diremo la nostra. E i film di cui vi parleremo sono ovviamente Io e lei di Maria Sole Tognazzi e Frield, un film americano. E direi però di partire subito con un pezzo musicale. Vi facciamo ascoltare Cat Power, I Don't Blame. Thank you. sono usciti in questi giorni quindi due film a tematica lesbica, uno italiano e l'altro americano, Io e lei di Maria Sole Tognazzi e Frield per la regia di Peter Sollet. Un miracolo che escano due film insieme a tematica lesbica. Miracolo a Milano. Un miracolo, miracolo a Roma, in tutta Italia. Tutta Italia. Si tratta di due film molto diversi tra loro, essendo quello americano una storia vera che denuncia la disparità di trattamento economico fra coppie gay e coppie etero nel campo dell'assistenza previdenziale. L'altro invece, a detta della stessa regista, è una storia d'amore rappresentata nella sua normalità, con l'intento dichiarato di considerare le relazioni amorose per quello che sono, e cioè semplici relazioni affettive e d'amore. E quindi questi due film in sala, magari anche un po' recalcitrando, perlomeno per quello che mi riguarda, li abbiamo visti e appunto vogliamo fare qualche considerazione su ognuno. Tra l'altro vorrei dire che la discussione tra di noi è stata anche abbastanza vivace, può sembrare strano perché in effetti nessuno dei due film si può considerare un capolavoro, non me ne vogliano ovviamente la regista e il regista, tanto non ci sentiranno mai, suppongo, e comunque abbiamo deciso di parlarne lo stesso, nonostante appunto non ci abbia del tutto convinte, per esempio, l'accento sulla normalità che Maria Sole Tognazzi ha voluto imporre al suo lavoro. E questa scelta di parlarne però è, ad esempio, è stata anche dettata dal fatto che il film ha ricevuto anche delle critiche abbastanza pesanti, ad esempio dalla stampa di destra, e magari la stampa ha sottolineato la scarsa credibilità delle attrici nel ruolo delle lesbiche, c'è stata la solita polemica sull'utilizzo di fondi pubblici per un film che in qualche modo diffonde un messaggio che mina la stabilità del modello sociale dato, del modello sociale giusto, e infine ovviamente tutta la consueta diatriba sulle unioni civili e sui matrimoni gay. Fra un po' Stefania ci parlerà del film, intanto ascoltiamo Let's Not Pretend, Lily Wood and the Prick. Been spending quite some time trying to fix the way I am in. Chasing all the bad, don't make it good. Even when I was a child, I never trusted anyone. And trying to change me now will get you nowhere. I try to think of this city, tries to handle that. And we try to get along, but we get nowhere. I try to be polite. Let's not pretend that things are easy to do with a face. partiamo da Io e lei. È un film godibile, qualche richiamo al vizietto di Papa Ugo, combattute divertenti e lieto fine. Insomma, un menage normale tra due donne mature, condito dai classici stereotipi: famiglie di origini comuni, una burina, l'altra della media borghesia, figlio, amante maschio, ex marito con compagna più giovane ed altro figlio, scena di gelosia, tradimento, abbandono e riconciliazione. Un film quindi che racconta uno spaccato di vita di donne comuni e di un amore normale. Tutti gli amori sono normali e quindi tutti sono uguali. Ma a noi lesbiche, a noi che ci innamoriamo delle donne, a noi che le scegliamo non solo come riferimento affettivo ed emotivo, ma come compagne di vita, referenti sociali e politiche, a noi, questo film che parla di normalità, che effetto ci fa? Per molte lesbiche scoprire di innamorarsi delle donne non fa suonare le campane o cinguettare gli uccellini. Siamo immersi in una cultura non inclusiva che non prevede questa libertà. La nostra è una cultura etero-orientata. Permettersi quindi di dare spazio al desiderio, di vivere le emozioni, significa scegliere e battere una strada non prevista, difficile da individuare e da percorrere. Per questo riteniamo questa capacità una prova di grande intelligenza delle donne. Sì, come sosteneva Adrienne Rich in Esistenza in eterosessualità ed esistenza lesbica, effettivamente la vita delle lesbiche, la vita lesbica, l'esistenza lesbica è stata vissuta diversamente, ad esempio dall'esistenza ebraica o cattolica, senza poterne conoscere la tradizione, la continuità, il supporto sociale, mentre invece l'esistenza lesbica è una esperienza profondamente femminile. Perciò se l'amore è soltanto amore, amore basta, allora in qualche modo le nostre storie banalmente scadono in stili di vita diversi, ma comunque sempre funzionali al sistema, allo stesso sistema. Ci si ama, ci si accoppia, si costituisce appunto la famigliola di cui parlava prima Stefania, magari con il cane o il gatto annessi, qualcuna c'ha anche gli uccellini, i pappagallini, i pesciolini, e in questo modo però si continua a reiterare lo strumento del matrimonio accanto al maschio dominante come vero modello da perseguire, con tutta la mistica e l'apparato che si porta dietro, costruito per ottenere il consenso senza se e senza ma. Quindi direi che si tratta di uno strumento non esattamente innovativo. Andiamo avanti con un po' di musica. White Oak Civilian. Freeheld con Julianne Moore ed Ellen Page presenta invece un altro taglio. Anche qui ritroviamo elementi analoghi come l'amore, la convivenza, la famigliola, anche qui col cane, lì erano i gatti nell'altro film, quindi col cane annesso, ma anche la crudezza della cultura lesbofobica statunitense e gli elementi classici della paura di esporsi a causa delle eventuali ritorsioni paventate o sperimentate. Il film è tratto da una storia vera, narra le vicende di una detective della polizia, Lauren Hester, che malata di cancro rivendica la propria rivendica per la propria compagna i benefici pensionistici previsti in alcuni stati americani per le coppie di fatto, ovviamente, ma non nel New Jersey, dove la storia si svolge e dove le protagoniste vivono. La vicenda viene narrata senza sbavature né pietismi, nonostante l'inesorabilità della malattia. La detective Hester, una splendida Julianne Moore, ripeterà fino alla morte pari diritti. Non si batterà per il matrimonio, ma per avere ed ottenere la parità di diritti. È quello che noi chiediamo da sempre, diritti individuali e non privilegi di coppia. Quando la discussione sui diritti e le unioni civili ha cominciato a mettersi in moto, una ventina di anni fa circa, come gruppo sostenevamo la necessità di accedere ai diritti come singole e non come coppie. Ancora oggi riteniamo che sia una posizione più corretta rispetto a quella che prevede l'accesso ai diritti solo se si rientra in un certo tipo di ordine stabilito. Sei ed esisti e sei riconoscibile solo se sei in coppia. Questo tipo di soluzione comporta una disparità fra le cittadine e i cittadini che scelgono di non essere in coppia, determinando quindi l'istituzione di categorie di serie A e di serie B. Questo esula dalla sfera dei diritti, rientra più che altro in un discorso di privilegio. Quindi, ragazze, che possiamo dire? Buona visione con questi due film, una commediola e un film sui diritti. Se riuscite a vedere Freeheld, perché... Non so se è ancora in sala. Non sappiamo se è ancora in sala, magari in qualche parte, qualche città, piccola città italiana che arriva dopo. Non so, forse magari anche in qualche cinema romano, non lo so veramente. In realtà qualcuna, forse anche tu, ha avuto difficoltà nel vederlo perché nonostante la programmazione fosse stata già programmata, scusate il bisticcio di parole, c'è stato magari qualche piccolo, so che c'è stata difficoltà nel riuscire ad accedere alle sale, insomma a vedere il film presso le sale. E comunque ben venga ugualmente questo tipo di film, sia il film di denuncia che la commedia. E da tanti anni, perché noi ormai siamo un po' datate, da tanti anni diciamo sempre che parlare di questi argomenti è comunque un passo avanti, una cosa positiva. E Lucilla, che è ancora più antica di noi, dice sempre che vorrebbe una liana lesbica. Questo significa appunto riuscire in qualche modo a parlare delle nostre vite, anche non soltanto in termini straordinari, in termini di massimi sistemi, ma anche parlare appunto di quello che ci attraversa, le nostre piccole cose quotidiane. Sarebbe interessante però avere il punto di vista delle lesbiche, perché insomma quando qualcun altro parla di te ovviamente ti racconta e ti descrive con il proprio punto di vista. C'è stata una grande polemica rispetto a questa storia del film di Tognazzi, appunto sulla normalità. Io trovo che il film appunto sia stato divertente, mi sono fatto quattro risate, sono tornato a casa e l'ho cancellato, insomma non intendo dilungarmi oltre su questa cosa, però ho sentito molta polemica rispetto al punto di vista, e in realtà la regista descrive le cose secondo il suo sentire, il suo modo di pensare. Quindi se vogliamo parlare di noi, come al solito, dobbiamo mettere i nostri corpi in prima linea, parlare noi per quello che siamo, dire quello che vogliamo. Quindi, care donne cineaste, se ci siete, battete un colpo, fate dei film anche voi. Noi nel nostro piccolo, diciamo, le nostre piccole cose, non so a quante persone, a quante donne possano arrivare, però insomma facciamo questi discorsi sempre e comunque partendo da noi, e in questo modo abbiamo, non dico la certezza matematica, ma insomma una buona, ci avviciniamo abbastanza ad una idea di rappresentazione autonoma. E a questo punto io vi ricorderei ovviamente che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 sugli 87-900 MHz. Ci potete ascoltare collegandovi al nostro sito www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta, oppure sul sito di Onda Rossa www.ondarossainfo. Potete anche contattarci con noi telefonando qui in radio allo 06 49 1750, fino alla fine della nostra trasmissione, oppure potete scriverci una mail al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it. E a questo punto Stefania ci fa ascoltare Sharon Van Etten, I Know. Allora, 20 anni fa eravamo rivoluzionarie, oggi non più. La maggior parte del movimento ha scelto come battaglia primaria proprio questa strada, che pure nel suo intento più nobile per noi si inserisce in un discorso di omologazione, che in qualche modo azzera la carica eversiva delle nostre scelte e delle nostre modalità di vita. E intendiamo la battaglia per le unioni civili. è un atteggiamento comprensibile. Chi di noi almeno una volta non ha pensato: voglio il matrimonio anche io, solo anch'io, per il gusto, io. Anche lei. Solo per il gusto della rivalsa nei confronti del Vaticano o dei bieghi democristiani di altro color vestiti. Certo, perché quando si sente continuamente: voi non vi potete sposare, voi... La botta di rivalsa è quella, però effettivamente, essendo cittadine e cittadini di questo paese, sarebbe opportuno fare un discorso appunto sui diritti delle singole e dei singoli, in modo tale che ognuna possa esprimere la sua autonomia, la sua autodeterminazione rispetto alle scelte che intende effettuare per la propria esistenza, e in questo modo nessuno potrebbe mettere il dito o la lingua nelle questioni private e personali. È una cosa che difficilmente si otterrà, e sarà più probabile avere appunto unioni civili e matrimoni non so quando, perché questo governo chiacchiera, ma al momento non si vede nessun tipo di risultato. Comunque vi facciamo ascoltare in chiusura l'audio di un vecchio film che è un capolavoro, questo sì, Bandiera della diversità, la storia di un amore che potrebbe sembrare impossibile tra un ragazzo e una donna anziana. Il film è Harold & Maude, vi consigliamo di recuperarlo. 1971, è più vecchio di me, di poco però, di pochissimo. Anche di me è più vecchio. Vedete, sì. E ascoltate. La vita. Io mi vorrei trasformare in un girasole più che in ogni altra cosa. Sono così alti e così semplici. Tu che fiore vorresti essere? Non lo so. Una di queste margherite, per esempio. E perché? Perché sono tutte uguali. Ah, lo dici tu. Guarda, certe sono più piccole, certe sono più grosse, certe pendono a sinistra, certe a destra. Certe sono bruttine perché hanno perduto i petali. Sono una diversa dall'altra e si vede benissimo. Sai, Harold, secondo me gran parte delle brutture di questo mondo viene dal fatto che della gente che è diversa permette che altra gente la consideri uguale. Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. E allora rieccoci in voce. Bellissimo film, davvero, se non l'avete ancora visto, ma ne dubito, provate a recuperarlo in qualche modo. E a questo punto siamo quasi in chiusura, però vorrei ricordarvi che il 19 di dicembre ci sarà la consueta lesbotombola presso la Casa Internazionale delle Donne, organizzata, come sapete, dal Centro Femminista Separatista, dal Coordinamento Lesbiche Romane. È un momento ludico, ma è anche per noi un'occasione di finanziamento, per appunto finanziare le nostre attività. Come tutti gli altri anni, anche quest'anno ci saranno molti premi, non starò qui a dirveli, li potete recuperare sul nostro sito www.clrbp.it. Speriamo che possiate partecipare e diffondere questa informazione. Ogni anno un centinaio di donne partecipano a questa tombola, tutte si divertono, anche noi ci divertiamo molto, è molto faticoso ovviamente, ma è una, ormai da 12 anni è un appuntamento fisso presso il Buon Pastore, e quindi se volete farci compagnia ci trovate appunto il 19 dicembre, è un sabato. Vi ricordiamo anche che invece la sera prima al Chesbile ci sarà una rappresentazione teatrale con Laura Scarboncin, che ci parlerà del corpo lesbico di Wittig. E quindi sono due appuntamenti immancabili e imperdibili, venite copiose e copione. A questo punto l'ultimissima notizia, purtroppo ci corre l'obbligo di spendere due parole, lo facciamo con grande piacere da una parte e con profonda tristezza dall'altra, perché ieri è morta Fatema Vernissi, tutte la conosciamo, una scrittrice marocchina che era considerata la voce delle donne dell'Islam, è morta a Rabat, dove viveva e teneva una cattedra di sociologia presso l'università. Aveva 74 anni. È stata autrice di libri importantissimi che hanno permesso alle donne occidentali di aprire uno sguardo nuovo sulla condizione femminile nell'Islam, lavorando continuamente al tentativo di creare un ponte fra due culture che spesso sono in antitesi. Vi ricordiamo qualche titolo: La terrazza proibita, L'Arem e l'Occidente, Islam e democrazia, sono soltanto alcuni appunto dei titoli che l'hanno resa famosa e apprezzata per le sue idee. Era una donna di grande carisma, che è riuscita a leggere i fenomeni che attraversano il nostro tempo con uno sguardo attento e rivoluzionario, scrivendo e parlando di globalizzazione, della questione dei confini, il ruolo delle donne, le primavere arabe. Scusate. Partendo dalla denuncia dell'oppressione patriarcale nella società marocchina, che lei raccontava basandosi sulle sue esperienze di bambina cresciuta in un harem, è arrivata al lavoro di denuncia e demistificazione dell'immaginario occidentale sul mondo arabo e sull'Islam, e ha smascherato una serie di pregiudizi nei confronti della passività femminile delle culture islamiche, e contemporaneamente ha additato tutti quei condizionamenti subiti dalle donne occidentali che spesso pensano di essere emancipate, ma qualche volta anche loro hanno il loro burqa, tra virgolette. Vi riporto una frase di un'intervista di Mernissi. Fu in un grande magazzino americano che mi sentii dire che i miei fianchi erano troppo larghi per la taglia 42. Ebbi allora la penosa occasione di sperimentare come l'immagine di bellezza dell'Occidente possa ferire fisicamente una donna e umiliarla, tanto quanto il velo imposto da una polizia statale in regimi estremisti quali l'Iran, l'Afghanistan o l'Arabia Saudita. E questo lo dice lunga. E il suo interesse per la liberazione delle donne l'ha portata anche ad inventare queste carovane civiche, che sono state uno strumento per dare parola alle donne del suo paese. In qualche modo hanno cercato di spingere per un cambiamento culturale, un progetto questo giunto anche nei più remoti villaggi dell'Atlante, ha fatto anche le carovane dei libri, però era anche molto attenta ai saperi antichi delle donne. Il suo lavoro molto bello sulle tessitrici marocchine, forse è possibile recuperarlo. E abbiamo detto appunto che negli anni si era occupata di migrazioni e di confini. Veramente mai come in questi giorni le sue parole, molto semplici, anche molto, molto scarne, rispondono ad una verità con le quali tutte e tutti dovremmo confrontarci. Ve le riporto. È sempre più evidente, diceva, che le frontiere non esistono più, e che ciò che esiste nel mondo sono solo fragili civili. La vera questione oggi non è dunque come difendere le frontiere, ma come tutelare le persone. Quindi un saluto a Fatema Mernissi, e anche noi a questo punto finiamo la nostra trasmissione. Vi diamo appuntamento fra 15 giorni, sempre su questa frequenza, su Radio Onda Rossa, e alle 9:15, alle 21:15, e vi salutiamo. Un saluto da Rosina. Ciao. E da Stefania. Ciao, buonasera. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah.